15. GR24, il sole 24 ore. Non sapevo della mail di Carrai, dice Renzi, ma la Boschi non farà passi indietro. Manovra rinviata in commissione per alcune coperture. Via libera della Commissione europea all'acquisto di Air Berlin da parte di Lufthansa. Buon pomeriggio dalla redazione, da Valeria De Rosa. Non ne sapevo assolutamente niente. Così ha risposto il segretario del PD ai giornalisti che lo hanno interpellato a margine dell'intervista a TGcom 24. Renzi ha comunque difeso l'operato della sottosegretaria Boschi, che sarà candidata. Ma parliamoci chiaramente. Noi pensiamo davvero che tutta la questione bancaria italiana sia risolta sulla base di incontri del tutto legittimi e privi di alcuna pressione, non perché lo dice la Boschi, ma perché lo dicono quelli che hanno incontrato la Boschi. Allora va tutto bene, il PD deciderà le proprie candidature a gennaio, andremo sul territorio e vedremo che cosa pensano i cittadini. Il relatore della manovra, Francesco Boccia, ha chiesto un breve rinvio in commissione del testo per un rapido riesame di alcune disposizioni con problemi dal punto di vista finanziario, anche sulla base dei rilievi da parte del Ministero dell'Economia. I conti sono ok, il 2018 e 2019 sono perfetti, ha detto Boccia. È necessario intervenire brevemente sul 2020 per una piccola correzione più alcuni rilievi tecnici, ha sottolineato il presidente della Commissione Bilancio. Nei primi 10 mesi del 2017 sono stati attivati, comprese le trasformazioni, 1,33 milioni di contratti a tempo indeterminato, con un calo del 2,7% sullo stesso periodo del 2016. Lo rileva l'INPS nell'osservatorio sul precariato. Le cessazioni di contratti stabili nello stesso periodo sono state lievemente superiori alle assunzioni. Nel complesso, i nuovi rapporti di lavoro fissi e a termine nel periodo sono stati quasi 6 milioni, con un saldo tra assunzioni e cessazioni pari a un più 729.000 contratti. Non voglio lavoro nero in Vaticano, lo ha detto Papa Francesco nell'udienza ai dipendenti della Santa Sede. Vi chiedo scusa se questo ancora c'è, il famoso articolo 11, che è un articolo valido per una prova, ma una prova di 1 o 2 anni, non di più. Così come ho detto, ha aggiunto Francesco, che non si deve lasciare nessuno senza lavoro, a meno che non ci sia un altro lavoro fuori per sua convenienza o che ci sia un accordo con la persona. La cronaca ci porta in Sicilia. I malati terminali venivano uccisi sull'ambulanza con una iniezione di aria nel sistema sanguigno e poi i corpi venivano venduti per 300 euro a agenzie di onoranze funebri, mentre l'incasso finiva nelle casse dei boss. È l'ipotesi su cui lavora la Procura di Catania e che ha portato all'operazione dei carabinieri denominata appunto ambulanza della morte. In manette è finito un uomo di 42 anni con l'accusa di omicidio volontario, con l'aggravante di aver agevolato gli interessi di Cosa Nostra. Una indagine che va avanti da mesi. La Procura etnea aveva aperto un'inchiesta per omicidio dopo le rivelazioni di un collaboratore di giustizia che accusa la mafia locale di aver avuto un ruolo nella vicenda. Le prime rivelazioni il pentito le aveva fatte in un'intervista vista alle Iene e poi si era recato in procura per riferire dei fatti a sua conoscenza. Fino a questo momento i morti accertati sono 3 e sono alla base dell'ordinanza del GIP, mentre sono oltre 50 i casi all'attenzione della procura distrettuale di Catania, decessi avvenuti tra il 2012 e il 2016, sul quale sono già stati svolti accertamenti e di questi una decina, secondo le indagini dei carabinieri, hanno una maggiore pregnanza. Nino Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Catania. All'estero, il conducente del SUV che ha travolto i passanti nel centro di Melbourne in Australia ha avuto in passato problemi psichici e legati al consumo di sostanze stupefacenti. L'uomo è un cittadino australiano con origini afghane. Tra i 14 feriti alcuni sono in gravi condizioni. Un secondo uomo è stato arrestato. Al momento non ci sono prove di legami con il terrorismo. Un incendio in un edificio di 8 piani ha provocato oggi la morte di 28 persone e il ferimento di altre 26 in una cittadina nel centro della Corea del Sud. Un portavoce dei vigili del fuoco ha affermato che il bilancio delle vittime potrebbe essere ancora più grave, poiché le squadre di soccorso sono ancora impegnate all'interno dell'edificio nelle operazioni di spegnimento delle fiamme. Torniamo in Italia. Dopo l'indagine interna saranno chiesti i danni. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in merito all'indagine sull'albero di Natale installato a Piazza Venezia e soprannominato Spelacchio. Via libera della Commissione europea all'acquisizione di alcuni asset di Air Berlin da parte di Lufthansa. La decisione è condizionata al rispetto da parte di Lufthansa di impegni per evitare distorsioni della concorrenza. Tra i rimedi proposti dalla stessa compagnia, l'acquisizione di un numero ridotto di slot all'aeroporto di Düsseldorf e quindi la sua presenza aumenterà solo dell'1%. Ed è tutto per questa edizione, la prossima alle 16. A Natale siamo tutti più buoni. Monge però è buono tutto l'anno. E voi lo sapete. Monge, le sciatte e Special Dog sono alimenti sani e genuini, senza coloranti, conservanti e senza zuccheri. Bocconi cotti al forno, patè cremosi cotti a vapore e crocchette con tanta carne fresca. Insomma, una vera prelibatezza. Il regalo ideale per il vostro cane e il vostro gatto. Buon Natale dalla famiglia Monge a tutti gli ascoltatori e ai loro amici a quattro zampe. Monge, il menù di Natale per cani e gatti. Ci hanno chiamato pazzi, noi di Costantin. Aprire nuove stazioni di servizio mentre gli altri le chiudono? Una pazzia. Prenderci cura della tua auto offrendoti i prodotti più adatti per affrontare l'inverno? Una pazzia. E ora che in questi giorni ad ogni rifornimento regaleremo una confezione di pasta del rinomato pastificio Dalla Costa? Chissà cosa diranno. Buone feste dalle stazioni di servizio Costantin, dove fermarti ti conviene. Una pecorella, due pecorelle, tre pecorelle, 10 pecorelle, 21 pecorelle, 100 pecorelle. Difficoltà nel prendere sonno? Stress? Smetti di contare le pecore. Conta su melatonina e valeriana ACT. Una pecorella, due pecorelle. Melatonina e valeriana ACT è un integratore alimentare a base di melatonina e valeriana. Acquistalo nelle migliori farmacie e parafarmacie. Melatonina e Valeriana Act. Il buon sonno a soli 9,90€. Donald Trump e l'America. Xi Jinping e l'ascesa globale della Cina. Se ne parla nel numero 79 di Aspenia. La rivista diretta da Marta Dassù, in edicola con il Sole 24 Ore a 9,90€ anziché 12 euro. Gabbiano. Il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Oggi parliamo di un primato conteso. Beh, di primati contesi nella storia dell'umanità ce ne sono tantissimi, dai primati sportivi ovviamente, ma anche a primati più stravaganti: la donna con più tatuaggi, il primo bambino nato all'inizio dell'anno, l'animale più veloce. Insomma, i record sono infiniti, in continua evoluzione. C'è addirittura il Guinness dei primati, un libro, un'associazione che continua a segnare primati con delle persone che vogliono cercare di battere questi record. Bene, essere i primi in qualcosa, insomma, è il sogno di molte persone. È perché si può passare alla storia, anche magari per aver compiuto qualcosa che nessuno aveva mai fatto prima, oppure farlo meglio di tutti. Ci sono delle contestazioni, naturalmente, spesso più persone che rivendicano quel primato. Bene, oggi noi parliamo proprio di questo, di un primato un po' particolare, che viene conteso addirittura da tre donne. È un evento che è accaduto oltre 70 anni fa, però del quale si parla ancora. Al centro di questa curiosa diatriba c'è la nostra protagonista di oggi, che ovviamente è una donna della quale bisogna parlare al di là di questo primato, ma comunque è un'attrice famosissima negli anni 40 e 50, una diva del primo cinema, del cinema dei cosiddetti telefoni bianchi, famosa come lo erano in quegli anni tante altre star, non so, Alida Valli, Luisa Ferida, la povera Luisa Ferida, Isa Miranda, la grande Anna Magnani. Però a differenza di tutte queste bellissime e bravissime attrici, le performance di recitazione della nostra protagonista, ottime performance, lo ribadisco, sono passate però in secondo piano rispetto a un evento del quale lei è la figura centrale e anche contestata. Bene, oggi raccontiamo la vita e la carriera di Clara Calamai, passata alla storia come il primo seno nudo del cinema italiano. Madonna, Il padrone è uscito fuori di cervello. Ma che dici, chiudi la porta. Stanotte in vaccareccia, l'ha raccontato Laco. Dappertutto se ne parla in Firenze. L'hanno chiuso dentro a un campanile. È pazzo furioso. Tu sei pazza, non lui. Dico davvero. Non è possibile. Ma per me non è possibile, ma se l'hanno chiuso lo tengono chiuso. Un altro forse, non lui. Lui è di là nel suo letto. Ossia, nel nostro. Madonna, voi dormiste con un pazzo. Con un pazzo? Era savio. Anzi, voglio andare a vedere se l'hai svegliata. Deve essere poco che gli ha preso sonno. Come? Voi, mestiere, come siete qui? Scusatemi, madonna, sono qui. Ma allora io stanotte ho dormito con voi. Basta dimenticarlo. Vi consiglio di ridormirci sopra. Voi dovete spiegarmi. Credevo di essermi spiegato assai bene. Questa è una scena tratta dal famoso film del grande Alessandro Blasetti, La cena delle beffe, film del 42, passato alla storia per diversi fatti. Intanto in questa pellicola recitano Osvaldo Valenti e Luisa Ferida, la famosa coppia di attori, ne abbiamo anche parlato, trucidati dai partigiani nelle fasi finali della guerra. E poi questo è stato il film che ha dato la popolarità definitiva a Amedeo Nazzari, che recita la famosa battuta: chi non beve con me peste lo colga, con la O chiusa, segno della sua provenienza sarda. Ma poi questo film passa alla storia per la famosa scena in cui Clara Calamai, che interpreta la bella cortigiana Ginevra, è una donna contesa da diversi uomini, questa Ginevra mostra il seno nudo. Clara Calamai all'epoca ha 33 anni, ha una ventina di film al suo attivo e in quel momento lei sale alla ribalta, conquista la grande popolarità. Questa sua interpretazione diventa ovviamente un fatto di Stato, perché vi ricordo che siamo nel 42, e poi diventa oggetto di contestazioni di varia natura. Però andiamo con ordine, vediamo di raccontare intanto chi è Clara Calamai e perché voi la conoscete, perché a un certo punto vi dirò una cosa e anche i più giovani diranno: ah, però adesso ho capito. Come arriva a essere considerata una grande attrice, una donna che ha recitato in una cinquantina di film, diretta da registi come Blasetti, Mario Camerini, Lucchino Visconti e poi, e questo è il punto al quale arriverò più tardi, Dario Argento, e una carriera durata una quarantina d'anni. Clara Calamai nasce a Prato il 7 settembre 1909, non si sa molto dei suoi inizi, della sua infanzia, dei suoi debutti di attrice. Quando qualche giornalista le chiedeva come fosse approdata al mondo dello spettacolo, lei rispondeva sempre in maniera molto evasiva. È stato il caso a portarmi per mano nei labirinti di Cinelandia. Un giorno andavo per una strada qualunque, senza scopo, senza meta, disperatissima. Mi si è avvicinato un tale, mi parlò di cinematografo, mi fece una proposta di lavoro. Ecco tutto. È molto probabile che al di là dei dettagli sia andata più o meno così, e non vogliamo insomma aprire altre porte in merito. Clara Calamai era bellissima, non era una donna che passava inosservata, però aveva una bellezza diversa dai canoni dell'epoca, perché intanto non era una maggiorata, aveva un fisico magro, asciutto, diciamo moderno, e aveva una grande carica vitale, un fuoco negli occhi che traspariva, anche se lei poi di natura era chiusa e introversa. È quello che è sicuro che non inizia la sua carriera proprio giovanissima. Il suo primo film è Pietro Micca, è una pellicola di ambientazione storica diretto da Aldo Vergano, un film del 38, quindi Clara Calamai ha 29 anni, e insomma una discreta età. Di solito le attrici anche allora iniziavano molto prima. Lei recupera in Un baleno, però, perché nel 38 di film ne farà ben 4, tra questi Ettore Fieramosca di Alessandro Blasetti con Gino Cervi, un film sulla famosa di sfida di Barletta. Poi nel 39 altri 4 film, nel 40 addirittura 5 e nel 41 arriva a 7 film, tra questi L'avventuriera del piano di sopra con Vittorio De Sica. Chi siete? Che volete? Aiutatemi, salvatemi. Salvarvi da chi? Zitto, non parlate, è lui. Permettetemi di presentarmi, avvocato Fabrizio Marchini. E io Bianca Maria. Nient'altro? Non vi basta? Oh sì, un nome delizioso, magnifico. E vostro marito? Mio marito? Non mi parlate di lui, per carità. Ah, bene, avete ragione, parliamo di voi sola. Vorrei domandarvi tante cose, ma non oso, temo di essere indiscreto. Oh, fate pure, che cosa volete sapere? Paternità, maternità, luogo di nascita, altezza, peso, segni particolari. Ho 25 anni, sono nata a Capri. Capri, strano. Che c'è di strano? Ho l'idea che a Capri ci si vada per villeggiare, non per nascere. E io invece ci sono nata e non andrò mai a villeggiarci. Perché Capri, l'isola dell'amore, della felicità? Mi sembra questo il momento di chiacchierare con mio marito che mi sta cercando per tutta la casa. Sono gli anni dell'ingresso dell'Italia nella seconda guerra mondiale, sono gli anni del fascismo. Clara Calamai incarna perfettamente il desiderata del regime, è la quintessenza del divismo autarchico, perché altera e distante, la classica donna fatale, quella che nel film spesso attira gli uomini, magari in incontri fortuiti, ma sempre molto sensuali. E erano anni in cui non era facile creare, come dire, quell'allure di sensualità, perché non potevi far vedere quasi nulla, quindi tutto doveva essere delegato a sguardi, a ammiccamenti. L'anno dopo il nome di Clara Calamai diventa quello più pronunciato in tutta Italia, quello che viene bisbigliato nei salotti, che diventa il sogno di molti adolescenti e di tanti adulti, proprio perché contrariamente a quello che ho appena detto, in quel momento succede qualcosa che per l'Italia di quegli anni era certo ben diverso da ammiccamenti e sottintesi. Stiamo parlando però di meno di un secondo di pellicola, per l'esattezza 18 fotogrammi. Siamo nel 1942. Alessandro Blasetti è uno dei registi più celebri, più significativi del suo periodo. Oggi viene definito da molti il padre del cinema italiano moderno, assieme a Mario Camerini. Viene considerato peraltro il massimo regista del cinema, diciamo, di propaganda fascista, perché nel 29 realizza Il Sole, che è una esaltazione delle bonifiche del regime, è un film che ovviamente piace molto a Mussolini. Nel 35 dirige Vecchia Guardia, che era un'apologia della marcia su Roma. È abile nei film di ambientazione storica o pseudo storica, diciamo che oggi più che storici li chiameremo fantasy. È considerato un grande innovatore, uno sperimentatore, lancia autori nuovi come Pietro Germi, crea la coppia di Vistica Sofia Loren Marcello Mastroianni, insomma è un grandissimo personaggio. Blasetti ha in mente di realizzare un drammone epico, La cena delle beffe, tratto da un poema di Benelli. È una ricostruzione storica del periodo, diciamo, della Firenze rinascimentale di Lorenzo il Magnifico. Al centro del racconto c'è la vicenda di due fratelli ricchi, arroganti, che perseguitano un loro conoscente con delle provocazioni, lo bullizzano, diremmo oggi. Lo scontro arriva al culmine quando viene contesa la conquista di Ginevra, che è una bella cortigiana. Da quel momento gli eventi diventano drammatici e non più solo comici, e poi si va, diciamo, in un crescendo fino a un finale tragico. Il protagonista è Amedeo Nazzari, all'epoca lui è già molto famoso e con questa interpretazione si consacra divo del cinema. Per interpretare Ginevra, Blasetti non ha dubbi, sceglie lei, Clara Calamai. L'aveva già diretta nel 38 in Ettore Fiera Mosca e sa che lei è quello che ci vuole. Eh sì, perché il regista ha in mente un colpaccio, qualcosa che faccia scalpore. Per quello a cui sta pensando lui ci vuole un'attrice bella, brava, ma anche piuttosto disinibita. Lui ha deciso di mostrarla a seno nudo. È uno scandalo per l'epoca. Ascoltate la scena incriminata. Portatelo via! Via, via! Bevi. Momento! Senti, voglio farti un regalo. Sta' attento, Guardala! Hai guardato bene? Ecco, avete sentito Amedeo Nazzari che cattura il suo nemico giurato, i suoi uomini lo stanno portando via quando lui si ferma e gli dice: voglio farti un regalo. Si rivolge a Ginevra, Clara Calamai le strappa la camicetta e le rimane un secondo a seno nudo, poi si gira e la scena si sposta altrove. E pensate com'era il mondo e l'Italia in quegli anni. Allora, il momento in cui lei rimane a seno scoperto mentre si trova semisdraiata su un letto e dura esattamente 18 fotogrammi. Allora, la pellicola gira a 24 fotogrammi al secondo, quindi stiamo parlando di 75 centesimi di secondo, cioè tre quarti di secondo. Bene, questi pochissimi fotogrammi, quindi stiamo parlando veramente di meno di un attimo, un'occhiata fuggevole, questi fotogrammi però cambiano la vita di Clara Calamai, le donano nel bene e nel male una notorietà che resiste esiste ancora, l'opinione pubblica viene divisa e viene creato un mito con una querelle che viene dibattuta ancora oggi. Il seno nudo di Clara Calamai entra nella storia e intanto le costa da subito l'anatema delle autorità ecclesiastiche. La pellicola poi viene vietata ai minori di 16 anni, quindi diventa ovviamente la più ambita di tutti. Chi ha più di 16 anni corre a vederla, chi ha meno di 16 anni può solo immaginarsi questa scena. È terribile, meravigliosa, e il film ha un successo straordinario, diventa campione di incassi, arricchisce tutti quelli che ci hanno lavorato, anche perché bisogna dire che per tutto il film lei sfoggia delle trasparenze che lasciano poco all'immaginazione. Poi però arriva questa scena, la scena del seno nudo, tre quarti di secondo, ve lo ricordo ancora. E insomma, anche se è vero che La cena delle beffe è un film tutto, diciamo, permeato da un certo erotismo, poi in realtà non si vede nulla. E la cosa non si ferma lì. Non solo lei viene considerata un'attrice di dubbia moralità, e questo è un cliché che si porterà dietro per tutta la vita, e poi viene messo anche in dubbio il suo primato, il primo seno nudo. E pensate che c'è sempre di mezzo Alessandro Blasetti, perché nel suo film dell'anno prima, La corona di ferro, che è uno spettacolare colossal fiabesco che narra di una spedizione avventurosa della corona ferrea, quella forgiata con un chiodo della croce di Cristo, no? Ebbene, in questo film c'è una scena piuttosto azzardata. C'è l'attrice Vittoria Carpi che ha un velo trasparente, per un attimo si intravede un seno. Non si può proprio definire una scena di nudo. Il personaggio, peraltro, è interpretato da questa Vittoria Carpi, una figura minore, non è la protagonista della pellicola. La cosa era passata quasi inosservata, ma dopo lo scalpore della cena delle beffe, la Carpi astutamente comincia a sostenere di essere lei il primo seno nudo del cinema italiano. La vicenda più divertente in realtà è legata a un altro film, che era un terzo seno, a un'altra attrice famosa che era una acerrima rivale di Clara Calamai, si chiamava Doris Durante. Questa invece era famosa nel film Carmela di Flavio Calzanara, uscito pochi mesi dopo La cena delle beffe. Anche lei si mostra a seno nudo e commenta così: il mio fu il primo seno nudo del cinema ripreso all'impiedi. Apparve eretto come era di natura, orgoglioso, senza trucchi. Invece la Calamai si fece riprendere sdraiata, che non è una differenza da poco. Eh sì, quindi a questo punto si comincia anche a dibattere, diciamo, sulla essenza del seno. Qual era il seno più bello? Insomma, stiamo parlando di una bagarre tra due dive che si sfidano non solo a fotogrammi, a centimetri di pelle nuda, ma anche a situazioni, perché certo un seno mostrato in piedi deve stare in piedi da solo. Insomma, alla fine però, per la storia, il primato rimarrà a lei, a Clara Calamai, anche se è una questione che ancora oggi fa discutere i cinefili, gli amanti del cinema. Lei, Clara Calamai, comunque non aveva pensato a un esito così sensazionale di questa cosa, aveva immaginato un fatto clamoroso, ma del quale poi tutti si sarebbero dimenticati. Lei invece deve ricredersi, per tutta la vita dovrà convivere con questo marchio di attrice vagamente scandalosa, un odio amore fatto di successo, ma anche di una gabbia dorata che comincerà a andarle stretta di lì a breve, perché poi in realtà lei ha regalato al pubblico delle grandi prove di recitazione, i film che sono entrati nell'Olimpo del grande cinema italiano. Quindi alla fine forse questo seno nudo è diventato un po' ingombrante. Il falco e il gabbiano. La nostra protagonista di oggi è Clara Calamai, una delle grandi dive del cinema italiano degli anni 40 e 50. Clara Calamai, passata alla storia per essere stata la prima attrice italiana a mostrarsi a seno nudo in una pellicola, La cena delle beffe, pellicola del 42 di Blasetti. È stata al centro di una disputa che l'ha vista antagonista di un'altra grande diva del momento, Doris Durante, attrice amata dal cinema fascista, che vantava di essere stata lei l'unica che poteva far vedere un seno vero, come diceva lei, e non due lenticchie mostrate alla cinepresa. Pensate che rivalità che c'era. Sì, perché la Duranti parlava così delle forme un po' androgine di Clara Calamai, mentre lei, la Duranti, era una maggiorata e vantava un seno vero, cioè un seno di quelli che piacevano agli uomini del tempo. Però poi in realtà c'era stato un altro film, La Corona di Ferro, sempre di Blasetti, del 41, nel quale un'attrice, questa invece sconosciuta, Vittoria Carpi, mostrava un seno parzialmente velato. Insomma, è nata una querelle nella quale Clara Calamai si è vista contendere un primato, però la verità è che questo primato ha distolto l'attenzione della gente dal fatto che Clara Calamai era anche una grande attrice, era soprattutto una grande attrice. Dopo questa scandalosa per l'epoca interpretazione di Ginevra nella Cena delle Beffe, Clara Calamai diventa una diva ancora più popolare, attira le attenzioni di un grandissimo regista, Luchino Visconti, e lui ha una sensibilità straordinaria nello scegliere gli attori e capisce che Clara Calamai non è solo quella che ha mostrato il seno nella Cena delle Beffe, è un'attrice che ha delle grandi potenzialità. Lui sta cercando una donna che interpreti Giovanna Bragana, la protagonista del suo prossimo lavoro. Fioretto, l'amore bello vicino a te, mi fa cantare, mi fa sognare, chissà perché. Ti mangio qui? Guarda, io pago, eh? Va bene, ma si mangia di là. Aspetta in sala che te lo porterò io. Hai a che fare con quel pancione là fuori, tu? È mio marito. Fortunato di avere una donna come te, che cucina così bene. Non sprecarti, non sono una cuoca io. Giovanna, tieni d'occhio il pollaio, eh? E poco fa abbiamo messo le mani addosso a un rubagallini nascosto su un camion. Chi ti ha dato il permesso di farlo entrare in cucina? Ma sei matta? Tu sei capace di portarsi via anche i piatti? Ah, tu spennellati le unghie tutto il santo giorno, signora baronessa. E in cambio sta casa mia pare una piazza. Ah, te la prendi con me, perché sei furbo tu. Fai tanti discorsi e poi lo lasci andare via senza pagare. Senza pagare? Sì, non ho pagato. E perché non me l'hai detto prima? Adesso lo aggiusto io. Ossessione, questo è il film che Visconti sta preparando da tempo, è tratto liberamente dal romanzo di James Kenney, Il postino suona sempre due volte, dal quale poi faranno anche film. È una storia torbida, la storia di questa Giovanna che è la moglie di Giuseppe Bragana, è il gestore di una locanda, il panzone là fuori in questione, e lì arriva un vagabondo, Gino Costa, che non ha soldi, però è interpretato da Massimo Girotti, cioè il super bello dell'epoca, poi l'idolo delle donne di quell'epoca. E quindi ovviamente la bella Giovanna e Gino diventano amanti e decidono di uccidere il panzone, cioè il marito di lei, e di intascare l'assicurazione sulla vita. Quindi due amanti infernali, un amore che diventa un'ossessione che si spinge fino al delitto, con un epilogo che ovviamente è una tragedia, la punizione che si, la scure della colpa che si abbatte sui due amanti infernali. Ossessione esce nel 43 e ha successo, diciamo che divide il primato di film che segna la nascita del neorealismo, quindi un primato un po' più alto di quello del seno di cui abbiamo parlato fino adesso, divide questo primato con I bambini ci guardano di De Sica e Quattro passi tra le nuvole del solito Blasetti. E Visconti aveva in mente questa storia da tempo, l'aveva proposta a Anna Magnani, che aveva accettato il ruolo, ne aveva capito le grandi potenzialità, però Anna Magnani era incinta da poco, poi però le lungaggini produttive le impedirono di recitare, perché nel frattempo il fatto che fosse incinta era evidente, quindi questo era incompatibile con il ruolo di maledetta che doveva andare a interpretare. Il nome che ha in mente Visconti però è proprio il suo, Clara Calamai, la diva del regime, l'interprete autarchica, fatale, sensuale ma distaccata, sembrerebbe aver poco a che fare con Visconti, con queste vicende un po' sordide. E invece Luchino Visconti è una svolta epocale nella carriera di Clara Calamai, perché lui intanto cancella l'immagine della diva, chiaramente la immerge nella realtà che ha disegnato per lei nel film, quindi vestiti sciatti, niente trucco, viene spettinata, è al centro di una scena sporca, dimessa, con un marito volgare, grasso, unto, stravolge la sua essenza. Lei, che è stata al centro di uno scandalo, ha rappresentato il sogno erotico di un'Italia proriginosa e bigotta, diciamolo, diventa lei preda di un'attrazione fisica incontenibile, perché nel film l'oggetto sessuale non è la donna, non è lei, è lui, è Massimo Girotti, è il bello e maledetto. Stiamo parlando di Luchino Visconti, uno che ha saputo lasciare un segno e modificare il cinema italiano. E comunque poi, insomma, i gusti di Visconti erano anche noti, quindi in realtà dal regista all'attrice tutti erano soggiogati dall'attrazione per Gino, per Massimo Girotti, che in quegli anni era il bello per eccellenza. Lo sai tu che cosa sia un uomo vecchio? No, ma me lo immagino. Non puoi immaginarlo. Non puoi sapere che cosa sia per una donna vivere con un uomo vecchio. Tutte le volte che mi tocca con quelle mani crasse, vorrei mettermi a urlare. Non sono una signora io. Sono una povera disgraziata. Ma non ne posso più. Dimmi, mi potrà voler bene? Sempre. Sì, Giovanna. Abbastanza per non desiderare niente altro. Sì, Giovanna. Allora, dovrà pure accadere qualche cosa per noi. Ma bisogna volermi molto bene, Gino. Il film stravolge anche l'immagine che si voleva dare della donna, quindi non so, Vittorio Mussolini, figlio del Duce, redattore, anzi direttore della rivista Cinema, lui assiste alla proiezione del primo montaggio di Ossessione ed esce indignato: non esistono donne italiane così. E invece si sbagliava, perché ne esistevano, e come. Si dice che anche Clara Calamai, quando si era vista nelle prime riprese, fosse scoppiata a piangere perché diceva di essere stata rovinata, di essere brutta, sciatta, sporca, non voleva proseguire il film, diceva che la sua carriera era finita, e si sbagliava di grosso. E poi infatti confesserà di essere stata soggiogata dall'influenza, dal dominio di Luchino Visconti, di essersi messa nelle sue mani. Ha fatto bene, perché le ha cambiato la vita, questa volta non per un gossip, ma proprio per il peso specifico. Ossessione diventerà una pietra miliare del cinema, è stato inserito nella lista dei 100 film italiani da salvare, lista nata con lo scopo di preservare delle pellicole che avevano cambiato la memoria storica e il costume del nostro paese. I ruoli che legano indissolubilmente Clara Calamai alla storia del cinema italiano però non finiscono con La cena delle beffe con Ossessione. Ci saranno ancora molte sue interpretazioni memorabili che le varranno dei premi prestigiosi, la consacreranno tra le più grandi interpreti italiane del Novecento. Il falco e il gabbiano. Siamo nel 1946, Clara Calamai è all'apice della sua carriera e riceve un'offerta che accetta, anche se capisce che sarà un'interpretazione che le causerà nuovamente dei problemi, un altro suo grande colpo d'ala, perché Duilio Coletti, un altro grande regista dell'epoca, le propone la parte di Velka, e Velka è una bella contadina che accetta di sposare un anziano possidente, un uomo ricco ma rozzo, e lascia per questo il fidanzato povero. Poi il fidanzato povero tornerà all'attacco, i due diventeranno amanti, nascerà un figlio che lei fa credere al marito che sia suo, ma in realtà è figlio, diciamo, della colpa, è figlio del suo vero amore, e tutto termina in tragedia. Insomma, una trama tipica di quegli anni, anche in linea con le interpretazioni precedenti della Calamai. Il film si intitola L'adultera, poteva chiamarsi solo così, un film ancora intriso, diciamo, di quel erotismo a tratti sottile, a tratti esplicito, viene ampiamente censurato e addirittura viene censurato un po' a colpi di macete, quindi tutto va a scapito della trama che a volte neanche si capisce. Un giornalista cinematografico dell'epoca lo commenterà così. Fino a che punto la realizzazione si mantenga all'altezza delle intenzioni non siamo purtroppo in grado di dire, dato che l'edizione presentata al pubblico non è, in confronto all'originale, che un susseguirsi di scene incomplete, spesso prive delle necessarie premesse e dei relativi sviluppi. Il film è stato generosamente emendato, in quanto nell'Italia teoricamente democratica e di fatto repubblicana esiste una censura cinematografica che dall'iniziale libertà ha già raggiunto e oltrepassato il più ottuso e ipocrita moralismo. Ma malgrado questa confusione ingenerata da tagli indiscriminati, l'interpretazione intensa e passionale della Calamai non passa inosservata. Lei riceve un premio molto ambito, il Nastro d'Argento, alla miglior attrice protagonista, alla prima edizione di quel premio che era stato istituito proprio quell'anno, nel 1946. E peraltro non si può più vedere quel film perché in seguito alla censura la pellicola originale è andata distrutta. E pensate, insomma, cosa faceva la censura in quegli anni. Intanto però non abbiamo detto nulla della vita privata di Clara Calamai. Lei l'ha tenuta sempre molto lontana, è stata molto diva, però comunque lei si era sposata nel 1945 col conte Leonardo Bonzi, aveva avuto due figlie e da quel momento aveva cominciato a diradare le sue interpretazioni. Poi accetta un altro ruolo che le viene offerto ancora da Visconti, siamo nel 1957, il film Le notti bianche, tratto dal capolavoro di Dostoevsky, un film con Marcello Mastroianni. Nel 59 finisce il matrimonio col conte e lei si lega al comandante d'aviazione Valerio Andreoli e si ritira dalle scene. I colpi d'ala nella vita, nella carriera di Clara Calamai però non sono finiti, perché lei deve ancora regalare al mondo del cinema una nuova grandissima interpretazione che arriva nel 1975, ed ecco perché anche la mia generazione ha ben presente Clara Calamai. A chiamarla per un ruolo importantissimo nel suo film più noto è Dario Argento, e il film è un film che diventa un cult del suo genere, è il mitico Profondo Rosso. Ascoltiamo il ricordo di Dario Argento. Come ha scelto Clara Calamai? Come ho scelto Clara Calamai? Io volevo prendere un'attrice del cinema, del vecchio cinema, del cinema anteguerra o durante la guerra, che quindi era invecchiata e quindi che era, però che fosse quasi irriconoscibile, però che avesse il significato di una grande attrice. E cominciai a fare un giro a cercare le attrici italiane, come, dove stavano, cosa facevano, e così mi ricordo che alcune erano morte, alcune erano ridotte malissimo proprio. Invece Clara Calamai è viva e non è ridotta male per nulla, ha 66 anni, ma è una donna piacente e intensa, è un'attrice sensibile. Beh, tanto ormai lo possiamo dire, lei fa il ruolo dell'assassina, perché alla fine di un film meraviglioso, insomma, era lei il serial killer del film, ma soprattutto, al di là della bravura di Dario Argento, il finale del film mostra la grande intensità di questa grande attrice. Mi scusi, sono Mark Daly, un amico di Carlo. Ah, ma si accomodi, caro Mark. Io la conosco di nome, sa? Carlo mi parla così spesso di lei. È ingegnere, no? No, io sono pianista, insegno al conservatorio. Pianista? Si accomodi, prego. Vorrei solo vedere Carlo. Allora glielo chiamo. Carlo? Carlo? Oh, come sono distratta. Mi perdona, Carlo non c'è, è uscito, è andato via. Ma venga qua, mi racconti qualche cosa di lei? Da quanto fa l'ingegnere? No, signora, io sono pianista. E io sono attrice, o meglio, ero attrice. Guardi quelle foto, che ne dice? Ero brava o no? Sono certo di sì. Ma che importa ormai, mi consolo suonando il piano. E lei lo suona il piano? No? Il piano? Io faccio il pianista. Oh, ma è una magnifica combinazione, un ingegnere pianista. Senta, le va un duetto? E questo è il suo ultimo lavoro, l'ultimo colpo d'ala di Clara Calamai, che a questo punto si ritirerà definitivamente dalle scene, morirà a 89 anni a Rimini nel 98 e morirà una delle ultime grandi dive di un cinema entrato nel mito. Ci sono colpi d'ala che ti modificano la vita e magari spostano anche l'asse di osservazione, perché in realtà per troppi anni si è parlato di Clara Calamai solo in quanto prima donna attrice a mostrare il suo seno. Quei 75 centesimi di secondo le hanno in qualche modo segnato la vita. E Clara Calamai però è stata una grandissima interprete guidata da grandissimi registi, Luchino Visconti in primis. Ognuno di noi può rischiare di cadere, ma può anche volare molto in alto. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoelgabbiano@radio24.it oppure al nostro sito, oppure venite a trovarmi nei miei, nei nostri social. Insomma, se volete sapete dove sono. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Chiara Compagnoni.